Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Vorrei commentare la cosiddetta enciclica di Marco Travaglio sul terremoto. All'inizio è stato anche interessante vedere la cartina delle zone sismiche più a rischio, tra le quali appunto l'Abruzzo. Poi è tutto scaduto, come spesso fa Travaglio, nell'attaccare Berlusconi e chi in questo momento sta aiutando i terremotati. Ha detto perfino che Berlusconi con il terremoto farà molti più voti, ed è per questo che è presente all'Aquila. Ma dico io, chi gli ha dato il patentino di giornalista? Capisco avere visioni diverse, ma dire che Berlusconi ci guadagna voti dal terremoto, come siamo ridotti. Flavio. Da normale cittadino sono francamente sempre più esterrefatto da come i media esaltino notizie inerenti agli ascolti dei vari TG e degli speciali sul terremoto. Incredibile lo sciacallaggio di personaggi alla Travaglio che non trova altro che fare dietrologia, cercando legami con argomenti che non hanno attinenza e rasentando il ridicolo, come quando ipotizza quanti morti in più ci sarebbero stati con l'attuazione del piano casa. Giornalisti che, dovendo fare la giusta gavetta, fanno i reporter e di notte bussano ai finestrini delle auto ponendo domande grottesche. E dire che ho sempre pensato che non ci fossero domande stupide, ma semmai eventualmente soltanto risposte stupide. Beh, ho cambiato idea. Marciano. A proposito di sciacallaggio, mi viene in mente l'affermazione fatta martedì sera da Berlusconi, che non ha perso occasione per fare propaganda, affermando che avrebbe messo a disposizione subito 30 milioni di euro per i primi soccorsi. Bene, bravo. Solo che poteva evitare di dire che è la somma più alta stanziata sinora per disastri di questo tipo. Fabio. Non credo esista qualcuno più in malafede di Travaglio. Evidentemente, pensa di parlare solo a cretini o ignoranti e non a persone che hanno il cervello per capire e distinguere. Mi piacerebbe sapere chi lo sostiene. Luisa. Per una volta, comportamento esemplare della classe politica. Splendido esempio di efficienza della protezione civile e di solidarietà da parte di tutti. Poi però ci sono gli sciacalli, i vari Travaglio e i Grillo, che non perdono occasione anche sulla pelle dei morti per sputare addosso a tutti, cavalcando posizioni insostenibili. Enrico. Sono Samantha e vivo all'Aquila. Lunedì sera la prima scossa abbastanza forte è stata verso le 11. Io ho sentito per le scale le persone che uscivano e gridavano, ma è passata subito e la mia famiglia non è uscita. Siamo rimasti in casa. Ci siamo addormentati. Poi verso le 3:30 una nuova scossa, fortissima, sembrava non finire mai. Poi hanno iniziato a cadere un sacco di cose, libri, calcinacci e anche parti del soffitto. E appena è finita, siamo scesi, abbiamo abbandonato la casa. Mentre scendevamo ci siamo resi conto che il palazzo era sventrato. Poi ci siamo ritrovati tutti insieme, tutti in piazza, perché le case erano state evacuate e sono tuttora evacuate. Durante tutta la notte, nella zona dove abito io, vicino all'ospedale regionale, devo dire che non è venuto nessuno, né la polizia né i vigili del fuoco. Niente di niente abbiamo visto, fino al pomeriggio di martedì. Intanto sentivamo le notizie perché ascoltavamo la radio e abbiamo appreso che il centro storico era stato distrutto. E la prova ci è stata data dalle persone che venivano dal centro e avevano le foto della prefettura distrutta e delle vie del centro distrutte. E addirittura arrivavano delle persone che abitavano in centro, che erano state all'ospedale e avevano dei punti in testa. Io non so come descriverla, perché non ho mai avuto un'esperienza simile. Ripenso ai vari terremoti del passato, ma quando poi la vivi personalmente, è molto diverso. Hai paura. Hai paura per te e per la tua famiglia. Poi, piano piano, vieni a sapere che alcune persone non ci sono più e tra queste persone ci sono dei conoscenti e realizzi quanto sia drammatico tutto quello che è successo. Samantha. Terremoto in Abruzzo. Domanda: perché tanti crolli? Risposta. Causa disposizioni di legge sulle ristrutturazioni. Premessa. Abito in Friuli, zona sismica. La mia casa, costruita dopo il terremoto del 1976, è stata costruita, giustamente, in modo antisismico, come la legge prevedeva. Invece, per quanto riguarda un edificio adiacente, situato nel centro storico di un paese di 400 anime, non ci è stato permesso di ristrutturarlo, mettendolo anche in sicurezza. Se ce lo avessero permesso, l'avremmo rifatto con tanto di fondamenta, muri portanti in cemento armato, mentre esternamente l'avremmo lasciato in uno stato simile a prima, con il rivestimento di sassi originale. La maggioranza degli edifici dei centri storici friulani sono composti da costruzioni fatte di sassi tenuti insieme da poco più che uno sputo. Per legge, tali costruzioni non si possono abbattere, ma si devono ristrutturare senza modificarle. Conseguentemente, non potendo intervenire sulla struttura, il massimo che ci è concesso è abbellire la facciata o rifare il tetto e i serramenti. Ma le fondamenta? I muri portanti? Conclusione, bello fuori, marcio dentro. Forse è così anche in Abruzzo o in altre regioni? Cos'è meglio? Mantenere a tutti i costi il vecchio, con il rischio che ci cada in testa alla prima brezza, o rifare in sicurezza, pur mantenendo l'aspetto originale? Roberta Pordenone. Sono un costruttore edile operante in Veneto. Il piano casa proposto dal governo, pur non entusiasmante, è comunque soggetto alle normative. Le nuove costruzioni devono essere costruite con sistemi antisismici. I progetti sono redatti da ingegneri che non hanno niente da guadagnare lesinando nelle strutture e, nella peggiore delle ipotesi, abbondano nelle precauzioni per non avere responsabilità. Sono invece molto arrabbiato quando sento parlare di possibili trasformazioni di quelli che pomposamente sono definiti edifici storici in edifici antisismici. Conosco fin troppo bene il problema e posso affermare che questi interventi provocano ben più morti sul lavoro di quelli avuti per terremoti in questi anni. Bisogna avere l'onestà di considerare che alla fine, dopo l'inserimento di travi, cordoli, pilastri e architravi, impianti tecnologici e coibentazione, di storico questi edifici hanno solo l'aspetto esteriore. Tanto vale demolire e ricostruire con l'aspetto precedente. Lettera firmata. Si parla già di ricostruzione, ma prima è necessario costruire, forse per la prima volta, il senso morale e civico di chi ne avrà la responsabilità. Abbiamo capito che molti dei morti d'Abruzzo non sono vittime del terremoto, ma dell'incuria, dei giochetti politici, della speculazione che, a fronte di preventivi faraonici, ha realizzato strutture da terzo mondo, indegne di un paese che si ritiene civile, indegne di cittadini che perdono la vita per la furbizia di qualcuno. Ma io dico, ci sarà da qualche parte uno straccio di documento per l'approvazione dei lavori? Ci sarà uno sgorbio di firma che certifica e autorizza la costruzione di questi castelli di carta? Troviamolo e guardiamo in faccia chi, con superficialità, prende in giro un popolo. Giulia. Volevo solo esprimere la mia rabbia e soprattutto la mia nausea nel sentire per l'ennesima volta, in occasione di grandi tragici eventi, certe interviste seriali. Mi riferisco ai giornalisti che sul campo di disgrazie nazionali, dopo silenzi e immagini che spesso parlano da sole, anzi urlano, osano rivolgersi all'intervistato che si è sentito crollare la casa addosso o magari ha perso un parente o gli amici, con domande del tipo «Come si sente?» o peggio «Cosa prova?». La professionalità si misura forse sul numero di parole che i malcapitati riescono a pronunciare? O sul pietismo che tali povere, ma davvero povere frasi, riescono a provocare? E poi si dice che non è tempo di denunciare mancanze. Non ora, dopo, si dice, sempre dopo. E si farà il ponte sullo stretto mentre i centri storici di un'Italia traballante avrebbero bisogno di un po' di acciaio e cemento. Rita. La cosa che particolarmente mi sorprende è che non è pensabile che un tecnico, anche se non ricercatore, faccia quello che gli pare anche con mezzi propri e che nessuno dei superiori e dei colleghi ne sappia nulla. Anche perché l'attività più praticata nella ricerca italiana è il ficcanasismo su ciò che fanno i colleghi. Quindi, se non è particolarmente edificante che nessuno dei responsabili di un ente di ricerca sappia nulla, non è credibile che per colleghi tecnici sia lo stesso. Anzi, tutto fa pensare il contrario. Analisi disponibili online e critiche a caldo del tipo «se ci fosse stato qualcuno al suo posto alle 23, eccetera, eccetera». Inoltre, i tecnici della ricerca italiana sono particolarmente celebri per rispondere alle esigenze dei ricercatori con la politica del «con calma e per favore». Quindi, se uno è particolarmente motivato, può anche essere riuscito a brevettare qualcosa. Per il resto, il bersaglio preferito dagli sciacalli è Bertolaso, che deve farsi perdonare il fatto che alla fine qualche problema lo risolve, mentre molti cronisti hanno l'abitudine di sostituire il «per fortuna» col «purtroppo». Lettera firmata. Con molta probabilità io sono impazzita, ma la gestione di questo terremoto mi provoca rabbia. Non per i comportamenti del governo o della protezione civile, ma per l'ennesima dimostrazione di una mancanza della cultura della prevenzione. Noi sappiamo di vivere in un paese ad alto rischio sismico, eppure fingiamo che non sia così. Se non ricordo male, in base ad una normativa approvata in seguito ad un precedente terremoto dagli esiti disastrosi, ciascun comune dovrebbe avere un luogo attrezzato dove i cittadini si possano recare in caso di terremoto, avere tende, materiale di primo soccorso e quanto serve per organizzare i primi soccorsi, oltre ad un numero di emergenza dedicato, da attivare all'uopo, adeguatamente pubblicizzato. Non solo gli enti locali sono inadempienti, ma non si vedono onde di cittadini armati di forcone che chiedano a gran voce il rispetto di queste minime regole di prevenzione. E invece, che si fa? Si discetta se sia possibile o no prevedere l'evento sismico. Non vorrei sembrare cinica, ma ammesso fosse possibile prevedere con esattezza la data, il luogo e l'ora di una scossa, che ne sarebbe degli edifici? Si salverebbero vite umane? Cosa non da poco, ma i costi della ricostruzione rimarrebbero. Il secolo scorso si è aperto con il terremoto di Messina, eppure i cittadini di destra, di sinistra, di centro, apartitici o estremisti non percepiscono i sismi come eventi il cui danno possa essere limitato con una buona gestione del territorio e quindi non chiedono niente alla classe dirigente che di conseguenza si adegua. Non ho mai visto alcuna lista politica mettere questo tema tra i punti del proprio programma. Evidentemente non paga. Sembra siamo tutti accecati. Il massimo è dare addosso al governo in carica. Non ho votato Berlusconi, ma credo si stia comportando come si sarebbe comportato qualunque altro presidente del Consiglio. Ciascuno di noi finge che tutto questo non sia anche una sua piccola responsabilità. Dopo piove governo ladro, siamo al c'è il terremoto governo ladro. Il paese è alla frutta. Barbara. Credo che il parallelismo tra il ponte sullo stretto e la tragedia abruzzese si basi sulla convinzione molto diffusa dell'inutilità dell'opera, o meglio sulla completa incapacità nel nostro paese di avviare sforzi massicci su grossi piani di miglioramento dell'esistente: ferrovie, metropolitane urbane, infrastrutture della sicurezza e ovviamente la qualità degli edifici esistenti, soprattutto in zone sismiche, come di fatto è la gran parte d'Italia. Un altro parallelismo che potrebbe essere giudicato stupido è quello tra il ponte sullo stretto e la metropolitana di Roma, anche quella parzialmente finanziata CIPE. Io sposterei i fondi su queste infrastrutture. La metropolitana di Roma va avanti a corrente alternata e le nuove linee sembrano ancora un miraggio. Eppure, se aprissero con qualche anno di anticipo, sarebbe una rivoluzione non solo per i romani, ma per altri milioni di persone che orbitano intorno alla capitale. Migliorerebbe la loro qualità della vita e il rapporto con la propria città, con i servizi e con gli spazi pubblici. Meglio dunque un piano di ricostruzione con progetti non solo italiani, che non rappresenti una semplice speculazione edilizia. Di New Town a Roma ne sono nate troppe e i risultati sono quelli che sono. Lettera firmata. Da volontaria animalista voglio informarvi che tutte le associazioni italiane sono mobilitate per prestare soccorso anche agli animali coinvolti nel sisma. Animali che hanno perso casa, famiglia o entrambi le cose, rifugi ed allevamenti. In particolare vi segnalo il lavoro dell'Organizzazione Italiana Protezione Animali, che sta istituendo zone di raccolta in ogni capoluogo del paese per poi consegnare cibo e materiale sanitario nelle zone del sisma, ovviamente nel rispetto delle priorità stabilite dalla Protezione Civile. Ognuno di noi può e deve fare qualcosa per le persone coinvolte nel disastro, ma secondo me c'è spazio anche per dare una zampa agli animali. Paola. È incredibile come ci siano persone che vogliono trovare dei motivi di critica ad ogni costo senza alcun ritegno. Ci sono gli altristi e i dietrologi e spesso coincidono. È così difficile una volta tanto dire che le cose hanno funzionato? Perché non ce la prendiamo con i problemi reali, come verificare chi cavolo ha costruito un ospedale che crolla quando non dovrebbe, invece di perdersi nella caccia alla casta dei geologi, ridicolo, quando fino a ieri esperti italiani ed internazionali dicevano che era impossibile prevedere i terremoti. Mi sembra francamente si stia perdendo, come spesso accade, il centro delle cose. Paola. Sono un giovane imprenditore di 39 anni, un piccolo imprenditore che sta crescendo bene e che, per fortuna, non risente della crisi. Questo aspetto mi porta a voler provare concretamente ad aiutare almeno un altro piccolo imprenditore abruzzese che rischia di vedere vanificata la propria impresa per colpa di questa disgrazia. Io ho la possibilità di mettere a disposizione una parte del mio capannone. Non è grande, ma possiamo stringerci per un'impresa artigiana o di produzione di piccola entità che voglia o possa trasferire la produzione per un periodo tale da non dover interrompere il flusso dell'attività senza perdere così commesse e quote di mercato. Se lo proponessero a me, non sarebbe facile, ma sarebbe almeno un'opportunità. Non voglio affitto, non voglio royalties sul fatturato, non voglio condivisione di spese. Vorrei solo poter fare in modo che almeno una società possa beneficiare di uno spazio. Io le spese le devo comunque pagare. In questo momento penso ad una società composta da poche unità, ad una società che possa caricare su un camion le attrezzature e portare a Milano qualcosa per continuare a fatturare e vendere, per provare appunto a dare continuità all'impresa. Oggi è il momento del dolore e della tristezza, ma mi piace pensare che si possa andare oltre. Io faccio molta fatica tutti i giorni per far crescere la mia società. Ho 3 figli e se un terremoto fermasse tutto quello che ho creato, sarebbe per me e la mia famiglia una vera tragedia. Posso fare qualcosa? Ci provo. Alessandro. I terremoti si possono prevedere. Il governo americano, attraverso l'ente preposto, il noto USGS, mette a disposizione ogni giorno attraverso il proprio sito e gli strumenti di comunicazione disponibili una previsione per le 24 ore. A prescindere da questo e a prescindere dalle possibilità tecnologiche, un terremoto si può prevedere in termini di prevenzione. Un paese civile, dopo un mese di scosse di intensità superiore al 3° grado, avrebbe da tempo dovuto organizzare almeno un piano di primo intervento, predisponendo già da tempo almeno un ospedale da campo e le forniture di prima necessità. La popolazione avrebbe dovuto conoscere da tempo i punti di raccolta, le vie di fuga e le modalità di comportamento. Abbiamo assistito invece, e come al solito, ad un intervento successivo e tardivo. Soltanto la mattina successiva la Protezione Civile si è messa al lavoro in modo consistente e soltanto la mattina dopo sono partite le colonne di militari, vigili del fuoco e forze di sicurezza. Ancora una volta, l'Italia si dimostra un paese non all'avanguardia, incapace di gestire un'eventuale calamità naturale in tutti i suoi aspetti, compresa la possibilità di un falso allarme. Avvisando la popolazione, distruendo la stessa anche ai falsi allarmi, costruisce nella coscienza della popolazione una cultura del territorio che incide anche sulle modalità di gestione del patrimonio urbanistico che sullo stesso insiste. Simona. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Continuate a scriverci.